siamo passati da una produzione di oggetti a una produzione di pensieri. La produzione qui la si fa soltanto a pezzi, la filiera non è più completa, al massimo si inventano i modi di produrre, poi si va a produrre in un altro posto e poi si fa forse la logistica, ma anche la logistica ormai sta prendendo altre destinazioni perché è troppo costosa qui. Allora io penso che i luoghi che prima producevano forge, avevano rumori e producevano sudore e forze di muscoli, oggi devono essere usati per far muovere con grande rapidità le sinapsi, insomma, questo è un po' il ragionamento. Allora, come, in che modo?